A bordo campo di Dario Ricci. La montanara uè, si sente cantare. Gliel'aveva insegnata da bambino il papà Alfonso, questa canzone, a Marco Confortola. La montanara. E Marco l'ha cantata per tutta la notte, tra il 1 e il 2 agosto 2008, in cima al K2, per rimanere sveglio, per rimanere in vita, in quella che è stata la notte in cui la montagna degli italiani ha inghiottito le vite di 11 alpinisti. Marco, dopo aver conquistato la vetta, è riuscito a ritornare per raccontare la sua avventura, per raccontare quella tragedia. E oggi è uno dei re degli 8.000 italiani e dell'alpinismo mondiale, è ospite di... a bordo campo di Radio 24 per raccontarci quella notte terribile e tragica che poi ha anche descritto in Giorni di ghiaccio, il libro che ha pubblicato per Baldini Castoldi Dalai. E allora buongiorno Marco Confortola e partiamo dall'inizio. Come nasce il tuo amore per la montagna? Ciao a tutti. Beh, sicuramente, dove sono nato? Perché comunque sono nato in Valfurva, è una valle incastonata nelle montagne, per cui la grande passione arriva da lì. Poi da mio papà che mi ha trasmesso questa grande passione e poi piano piano diventa poi un lavoro perché sono una guida alpina, di conseguenza diventa poi una professione. E poi a furia di fare pazzie mi hanno cercato per i primi 8.000 e voilà, poi è nata questa grande, questo mal di Himalaya che è un po' come il mal d'Africa. Non passa mai, vero? Si pensa sempre a quelle cime una volta che si sta su sulla per la prima volta. Sì, perché comunque in quei posti noi stiamo bene, gli alpinisti... La piscina a un certo livello in quei posti lì stanno bene perché c'è proprio un'area di tranquillità, di solitudine, tra virgolette, e noi stiamo bene lì. Quello è il nostro mondo. Siamo nati, credo, per quello. C'è anche un rapporto particolare con la natura, no? Che hai sviluppato da sempre, direi, leggendo anche le pagine di questo libro di cui andremo fra poco a parlare. Tant'è che il tuo soprannome identifica quasi questo tuo carattere, te lo sei anche tatuato addosso, se non sbaglio. Sì, è selvatico, selvatico vuol dire selvatico, è un po' come una bestia selvatica. E sì, questo è un soprannome che mi hanno dato ormai da tanti anni. Ma fin da piccolino, perché fin da piccolino quando gli altri miei coetanei magari andavano, non so, al mare d'estate, io invece stavo sulle mie montagne, nei miei boschi, quando altri ragazzi giocavano a pallone, io vabbè, ero in mezzo per boschi o a sciare o fare cose un po' folli, insomma. Per cui già da piccolino ho cominciato a camminare in montagna così per gioco, poi diventa una passione, poi un lavoro. Un conto è la montagna, un conto sono gli 8.000 metri, no? Cioè, hai avuto una grande guida spirituale che ti ha avvicinato proprio alle vette del mondo, Gnaro Mondinelli, no? Sì, beh, Gnaro è stato ed è comunque, io lo considero il mio fratello più grande perché con lui ho fatto 9 spedizioni e lui mi ha insegnato veramente tanto, mi ha insegnato il capire quando muoversi, mi ha insegnato a camminare veloce sugli 8.000, mi ha insegnato a tenere duro, mi ha insegnato tante cose, per cui sì, Gnaro è stato sicuramente... ed è sicuramente uno dei miei più grandi maestri. In queste pagine di Giorni di ghiaccio, il libro che hai scritto per Baldini Castoldi Dalai, emerge un grande amore ma anche un grande rispetto per la montagna. Come nasce questo rapporto? È una sfida? È amore? È un rapporto molto complesso questo quello che si sviluppa con queste vette? È un amore quasi morboso. Io tante volte lo paragono un pochettino all'amore che hanno i marinai per il mare, perché montagna e mare sono simili, secondo me. È un amore che nasce proprio dentro, è una cosa che... Vabbè, io sono nato con le montagne, sono nato sulla montagna. Tante volte credo di essere nato per la montagna, di essere nato per fare la guida alpina, per accompagnare la gente in montagna, per trasmettere alle persone comuni questa grande passione che è la montagna. Perché una cosa che ce l'hai nel sangue, ce l'hai nel DNA, tu nasci con la passione... della montagna, ce l'hai proprio dentro nel sangue e quando ti parlano di montagna ti si illuminano gli occhi. Lo vedo adesso che sei qui di fronte a me questo sguardo innamorato e incantato per quelle vette. Al tempo stesso in queste pagine ho notato anche un senso di rispettoso, per carità, ma anche di sfida con la montagna. Mi colpisce molto ad esempio nella parte in cui tu racconti, scalavo monti, cime e già nello scendere pensavo alla prossima impresa, penso al prossimo 8.000 da conquistare. Non c'è un po' un senso di sfida estrema che è un qualcosa di quasi di irriguardoso rispetto alla montagna. Allora, innanzitutto c'è un grandissimo rispetto per la montagna, perché tanti ci hanno così un po' affibbiato questo nome, conquistatori della montagna. Invece noi siamo dei conquistatori dell'inutile, non conquistiamo niente, è la montagna che ci permette di salire, perché è sempre lei, come dicevo prima, è lei che ti permette di fare certe cose, perché noi ci prepariamo, ci presentiamo a un'avventura preparati fisicamente, mentalmente, tutto ricercato nel minimo particolare, però comunque la montagna o il mare che ti lascia fare certe cose. Per cui questa sfida non è proprio così, perché tanti pensano che siamo un po' dei folli che sfidiamo il nostro destino facendo le cose fuori dal comune. Sì, facendo le cose un pochettino particolari, specialmente sul ripio, sullo sia estremo, però abbiamo sempre comunque ben sotto occhio l'orizzonte, che l'orizzonte della nostra vita, perché è il bene più prezioso e non siamo degli incoscienti o dei pazzi. Per cui non è una vera e propria sfida. Camminiamo su quelle cime che tutti comunque non possono fare, perché bisogna essere anche predisposti sia fisicamente che mentalmente, però noi riusciamo a camminare 8.000 metri, ma siamo comunque preparati, non siamo degli incoscienti, come invece qualcuno magari ci dà queste, dice che siamo dei pazzi furiosi, assolutamente no. In questo duello, confronto, amore con la montagna, tu hai sviluppato un legame particolare con quella che nella storia è la montagna degli italiani, il K2 conquistato da Compagnoni e Lascedelli nel 1954, e che ti ha respinto una prima volta nel 2004. Nel libro descrivi quella sconfitta, se mi concedi il termine, come forse il momento più doloroso della tua vita di alpinista, almeno fino a quello che è accaduto poi quest'estate. Che sensazioni ti ha lasciato questo confronto con quella che è una delle montagne, la seconda vetta del mondo, forse la più difficile da scalare per le difficoltà tecniche e logistiche? Giustamente hai detto che è la montagna degli italiani, perché effettivamente il K2 è la montagna degli italiani, perché l'hanno conquistata nel 54, e neanche a farlo apposta uno dei conquistatori, se si può dire così, era Achille Compagnone, dal mio paese. Tante volte quello che è successo nel 2004, in maniera un pochettino più piccola, però è un po' il confronto che mi confronto tante volte a Walter Bonatti. Walter Bonatti nel 54, lì su quella montagna, ha sofferto veramente tantissimo, e ha sofferto proprio a livello proprio di cuore. E lo stesso è successo per me nel 2004. Per lui questo, esempio per Walter, è stato un grande rilancio della sua, proprio la sua carriera alpinistica, e anche per me, perché io quando vedevo la foto del K2 dal 2004 fino all'anno scorso veniva sempre un nodo alla gola, un magone. Infatti il primo anno piangevo per il K2, per cui ritornare su questa montagna è stato per me un grande successo, perché ho riportato la mia montagna a casa mia in Valfurva, anche se comunque con un bel prezzo, perché purtroppo è successa una delle più grandi disgrazie della storia degli 8.000. Rimaniamo ancora al 2004 per qualche istante. Quando la montagna ti dice no, quando ti respinge, per uno che è invece abituato a portarla in vetta, quella bandiera, a voler arrivare fino all'ultimo metro, come si torna a casa? È più difficile rinunciare che andare avanti, perché in quel caso lì, in quel momento lì a 7.500 metri, quando questa tenda, non si è capito bene per quale motivo non c'era più, è stato difficile per me tornare indietro. Si torna a casa bastonati. Sì, perché ricordiamo tra l'altro che con i tuoi compagni di spedizione avevate lasciato proprio all'ultimo campo prima della cima del materiale, che poi misteriosamente è scomparso al vostro arrivo, il che ha mandato a carte 48 tutta la spedizione. Sì, non tutta, perché comunque quanto di noi ha raggiunto la cima, per cui quando noi siamo riusciti a raggiungere la cima e hanno comunque portato la spedizione in cima al K2 dopo 50 anni. Altri 8 di noi sono dovuti scendere perché non c'era del materiale. Però tornare a casa senza aver portato a casa la cima del K2 è stata veramente dura per me. Infatti io mi ero ripromesso di non più tornare sugli 8.000. Basta, ho detto io basta 8.000, voglio sentirne parlare. Invece grazie a Gnaro nel 2005 mi hanno rinvitato una spedizione, sono ritornato e ho ricontinuato a salire un po' di 8.000. Infatti, piano piano nel libro racconti, no, questo percorso di redenzione, ma anche di formazione, perché poi ogni 8.000 è un viaggio sulla vetta del mondo, ma anche dentro se stessi, e quindi si cresce dal punto di vista professionale, emotivo, l'esperienza, fino a tornare ai piedi di quella montagna, no? Quest'estate il K2, ancora una volta, ancora quella possibilità, una spedizione che parte in modo particolare perché dovevate essere in 6, poi un giro di telefonate, descrivi nel libro, alla fine vi ritrovate tu e Roberto Manni. Com'è nata quella spedizione che poi l'1 e il 2 agosto vivrà una delle pagine più tragiche del nostro alpinismo. Beh, la situazione era già, io l'avevo già in testa da anni. Nel 2007 con Gnara, un sub Roth Peak, io ho parlato al K2 e gli ho detto: guarda che io torno, perché voglio tornare da te, mi fai salire. Roberto anche lui era al Broad Peak, è nata questa idea di tornare al K2 assieme. Dopo logicamente dovevamo essere in 6, invece per problemi fisici di altri ragazzi abbiamo dovuto rinunciare, però ormai eravamo in ballo, abbiamo detto balliamo e siamo partiti. È una marcia d'avvicinamento che sembra in qualche modo segnata da presagi, da indicazioni contrarie, da piccoli intoppi che rendono complicato l'avvicinamento a questa marcia. Ecco, a posteriori c'è il rimpianto di magari non essere riusciti a decodificare meglio dei segni o del destino o anche più evidenti nell'avvicinamento a proprio questa spedizione. Ci ripensi ogni tanto? Si sarebbe potuto fare qualcosa meglio prima? No, perché comunque ogni spedizione ha la sua storia. Di conseguenza ogni volta che si parte da una spedizione qualcosa non va bene, qualche problemi, non so, con i permessi, con i bidoni, con i portieri, con gli sherpa, è sempre un gran casino. Logico, dopo il K2 l'avvicinamento sono 10 giorni di trekking molto lunghi e difficili, poi è un posto che comunque, non so, c'è sempre il problema dell'acqua. Ci sono tanti problemi proprio tecnici nel raggiungere il campo base, però assolutamente no, non è che era presagibile questo grosso problema, assolutamente no. Tant'è che a un certo punto poi nel racconto e nella spedizione stessa vi ritrovate in uno dei campi d'avvicinamento alla cima insieme a molti altri alpinisti, coreani, olandesi. Si era creato anche per aspettare le condizioni giuste per tentare l'assalto alla vetta. Chissà, chi ha masticato un po' di storia d'alpinismo è che comunque sugli 8000 i giorni di bel tempo, specialmente sul Karakorum in Pakistan, sono 4-5 giorni di bel tempo di fila. E si sa benissimo che la finestra di bel tempo, si chiama così, per il K2 è fine luglio, inizio agosto. Ci siamo trovati tutti sulla montagna perché era un mese e mezzo che ha avuto tempo e i giorni di bel tempo era solo il 31, l'1 e il 2, basta. Per cui, di conseguenza, le persone che stanno aspettando al campo base, quando le condizioni meteo sono state simili per tutti nelle previsioni, logicamente tutti sono partiti per la cima. Infatti è stata fatta una cosa molto intelligente, dei briefing prima per riuscire a coordinarci, visto che si sapeva che dopo si salivano tutti assieme, è stato giusto trovarsi per fare un briefing per il materiale, eccetera, per fare un progetto di salita assieme. A bordo campo. Ancora insieme a bordo campo con Marco Confortola, con cui stiamo rivivendo la tragica spedizione sul K2 dell'1-2 agosto dello scorso anno, una spedizione che Marco ha affrontato insieme a Roberto Manni e subito in qualche modo si caratterizza l'ascesa verso la cima per la diversità di passo, di velocità che voi due avete. Tu, in virtù della tua esperienza, della tua forma fisica, precedi Roberto nelle varie tappe dell'ascesa, un fatto che è abituale per chi conosce e pratica la montagna, vero? Io ero un pochettino superiore a Roberto, ma proprio questa è una cosa minima, però arrivavo male al campo un'ora prima, non è un problema quello assolutamente, anzi tante volte chi è più forte riesce ad andare avanti prima, fa piazzole, prepara, fa acqua, eccetera, e aspetta il compagno quando arriva, gli dà un po' di tè caldo, gli fa già trovare la tenda preparata, eccetera. C'è anche questo fattore tempo, inteso come tempo climatico, e sarà quella una delle cause di questa tragedia, ma anche come finestra temporale del bel tempo, per cui, come dicevi, nel momento in cui la montagna ti dà il segnale, a quel punto bisogna lavorare in modo molto cadenzato per poter arrivare in cima e scendere in quel momento, no? In quel frangente, perché bisogna sfruttare quella finestra. E qui mi sembra che anche dal tuo racconto emergano molte delle cause che poi hanno portato a quella drammatica notte dell'1-2 agosto, no? Ci sono stati diversi intoppi in quell'ultima fase dell'ascesa. Ma sì, purtroppo, come su tutte le montagne, come dicevo prima, ci sono delle variazioni. Quando è precipitato il serbo, quello che è stato un pochettino il problema più grosso sicuramente, lì è stato un po' variato tutto il ritmo di salita, abbiamo avuto dei ritardi e la conseguenza è che abbiamo raggiunto la cima tardi, perché tanti hanno criticato l'arrivo in vetta del K2 in un'ora non giusta, però è successo che purtroppo questa persona è precipitata e abbiamo ritardato e ce lo siamo portati avanti questo ritardo, altrimenti eravamo giusti con i tempi di salita e di discesa. Infatti, perché c'erano alpinisti coreani, serbi, statunitensi, un irlandese, no? Che tu chiami anche nel libro, chiamavi lì nel villaggio Jesus, perché proprio aveva questa la barba e i capelli lunghi, no? Sarebbe stato il primo irlandese a scalare il K2. È stato, ha raggiunto la cima. Purtroppo non è più tornato a casa, però è il primo irlandese che ha raggiunto la cima. Adesso quando ripensi a Jesus... Ma logicamente non è per essere insensibile, però è una cosa che bisogna girare pagina, bisogna andare avanti nella vita, perché comunque i problemi non sono gli 8.000, i problemi della vita sono ben diversi, anche più grandi. Logicamente, se io penso che settimana scorsa ero in montagna, sulle mie montagne, con i miei clienti, ho pensato tante volte che avevo invitato tutti questi ragazzi, gli olandesi, tra cui anche Jesus, a casa mia, sulle mie montagne, a farsi alpinismo. Ci penso. Però purtroppo è così, la vita è così. Colpisce anche il fatto, colpisce noi appassionati ma non esperti di montagna, che quella tragedia che cancellerà la vita di 11 alpinisti e che segnerà inevitabilmente l'animo e anche il tuo corpo, accade nel momento in cui la vetta è conquistata. Nel libro stesso dici: attenzione, perché quando si arriva in vetta e poi la discesa, il tornare giù, soddisfatti per il risultato ottenuto ma stanchi e provati fisicamente dallo sforzo, che possono avvenire i drammi più grandi. Stavolta, in quella notte dell'1-2 agosto 2008, è avvenuto proprio questo. Cosa è accaduto? È successo che io non ho visto, perché ero sopra a fare un bivacco con Jesus, però credo che sotto, per problemi di sfinimento, di crolli, di seracchi, credo, però non ho visto niente, è successo tutto quello che è successo. È stata una cosa drammatica, perché ne sono morti 11 come delle goccioline, quello sì. Perché ci sta benissimo che una valanga scende e porta tutte le persone, però è una cosa veramente che ti fa pensare, perché come delle goccioline purtroppo se ne sono andati. Però non do giustificazioni e non posso neanche dire più di tanto, perché non ho visto. Io ero sopra il seracco, ho bivaccato 8.400 con Jesus di fianco, non ho visto, credo, qualcuno ha visto sotto, però è un problema, perché anche quelli che hanno visto sotto chissà cosa hanno visto bene, perché nessuno aveva un binocolo, nessuno, anche dal Broad Peak hanno visto qualcuno precipitare, però io personalmente non ho visto niente. So solo di quello che ho fatto con gli altri ragazzi, ho visto Jesus e basta. C'è il racconto di quella tremenda, incredibile notte vissuta senza l'addiaccio praticamente, ma a meno 30, a meno 40 gradi, insieme a Jesus, nel tentativo di mantenervi svegli, dandovi colpi per mantenere in movimento mani e piedi. C'è questa canzone che in qualche modo ti ha salvato la vita, no? La Montanara, cantata per infinite volte, ti ha mantenuto sveglio. Quella notte lì, passata 8.400 metri con Jesus, a fare un bivacco senza niente, senza tenda, senza copero, senza niente, fermarsi lì, aspettare il giorno per uscire a vedere dove andare, è stata comunque una notte difficile. Poi io con Jesus gli ho detto: Jesus, stiamo fermi, ricordiamoci le mani e i piedi di non gelarci, perché qui siamo molto in alto, poi abbiamo fatto una gran fatica in salita. Ormai era un giorno che non si beveva, non si mangiava, è un attimo, poi senza ossigeno veramente un attimo a congelarsi, ma più che congelarsi morire. Difatti la cosa importantissima è non addormentarsi assolutamente. Difatti ho pensato sempre comunque di tornare a casa mia, ho pensato tanto a Jesus che era di fianco a me e ho anche cantato. Ho cantato perché mi sentivo tranquillo, stavo bene, avevo comunque mani e piedi calde, anche la notte era abbastanza tranquilla, una notte serena. Però vi assicuro che 8.400 metri fare un bivacco, passare fuori una notte, non è semplice. Però la forza di volontà e la voglia di vivere mi ha fatto tornare a casa. Passata quella notte tremenda, si ricomincia la discesa e ci si rende conto, no, della tragedia che era avvenuta. Cioè, c'è un'immagine tremenda che consegna a queste pagine degli alpinisti coreani. Sì, questa è stata un'immagine veramente forte, perché comunque quelle persone erano vive ed erano sul seracco, purtroppo... erano vive. Io ho chiesto a Jesus: per piacere dammi una mano a aiutarli, perché proviamo a fare qualcosa. Erano comunque vivi. Dopo, se penso adesso, quello che stavano facendo era quasi impossibile portarli a casa, perché uno era senza scarpe, senza una scarpa, era impossibile fare il traverso senza uno scarpone, esempio. E poi anche gli altri avevano battuto forte sul ghiaccio, e poi tutta la notte che erano appesi. Però sono contento di averlo fatto, anche se credo che questo mi ha costato un pochettino il discorso dell'amputazione dei piedi, però sono contento di averlo fatto, perché quelle persone erano vive. Almeno io e Jesus abbiamo provato a salvarli, e almeno gli abbiamo dato forse una morte un pochettino più dignitosa che a testa in giù su un seracco. anche se è stato veramente duro, perché purtroppo Jesus per questo soccorso ci ha lasciato la vita. A un certo punto Jesus compare dal tuo fianco. Sì, io non so cosa possa essere successo nella sua testa, perché ripeto, io non sono un alpinista, non sono un medico e nessuno penso che mai lo saprà, perché comunque nessuno mai lo saprà, però purtroppo lui mi ha abbandonato. Io ho pensato che andasse a fare delle fotografie per giustificare il tempo e il soccorso, e invece penso che il grande periodo, il lungo periodo a quelle quote lì senza ossigeno gli ha portato questo problema a livello proprio cerebrale, di essere convinto quello di salire, credo, però non, io so solo che purtroppo per aiutare queste persone lui se n'è andato. La frase che ti ripeti e che ti salva è: Marco, non mollare, no? C'è questo ritornello che ti accompagna in questa discesa, e immagino che è una frase che risuoni da quel giorno spesso nella tua mente. Io questo devo dire grazie un po' proprio a come sono cresciuto e a mio papà e mia mamma, che mi hanno costruito in una certa maniera fisicamente forte. Un altro grazie va a Agnaro, perché comunque con le spedizioni che abbiamo fatto, sempre a manetta, sempre veloci, sia l'Annapurna che il Cioio in 24 ore eccetera, mi ha sempre veramente tirato al limite, mi ha insegnato a tenere duro, e anche sulle 8000 non l'abbiamo mai mollato. Questi grandi allenamenti particolari sulle 8000 metri me l'ha insegnato Agnaro, e effettivamente sono funzionati anche sul K2. Io non ho mai mollato, ho sempre pensato torno a casa mia, e sono tornato a casa mia. E il momento della salvezza come lo ricordi? A un certo punto c'è un portatore, no? che quasi ti costringe a rimanere in vita. Quando mi ha trovato Pemba avevo le mani, perché un guanto l'ho lasciato allo sherpa, per cui non avevo i guanti, avevo messo le mani dietro la nuca e riposavo, sentivo la neve sul viso. Lui mi ha obbligato a prendere l'ossigeno, anche se non lo volevo assolutamente, perché visto che l'ossigeno l'ho usato all'Everest, c'è questa grande maschera che non ti fa vedere i piedi, per cui so che fai una fatica immensa. E lì è proprio una chiara testimonianza che comunque la gente in montagna si aiuta, perché io prima con Jesus per 3 ore e mezza ho tentato di salvare 3 persone, dopo 4-5 ore lui ha cercato di portare a casa Marco, per cui è proprio un senso di aiuto reciproco che c'è in montagna. Se ne hai dentro, se hai benzina, cerchi dalla anche agli altri. In questo caso lui l'ha data un po' a me e io prima l'ho data agli altri sopra. Da quel giorno com'è cambiata la tua vita? Ma mi viene da ridere, ho cambiato il numero di scarpe. Io la prendo sul ridere, perché bisogna ridere, perché comunque sono vivo. È cambiata perché apprezzo molto di più la vita, apprezzo molto di più tutte le cose che comunque mi stanno attorno, da un sorriso di una persona, all'amicizia, a un fiore, a un tramonto, a una giornata. Apprezzo molto di più tutte le cose, anche se prima le apprezzavo già tanto. Però questo mi ha fatto ancora capire ancora di più il valore della vita, che è un bene prezioso, che è quello che insegno poi ai giovani e agli adolescenti quando faccio le conferenze. E quando ripensi al K2? Non è mai stato un nemico da battere, mai, perché nessuna montagna per me è una montagna da battere. Non siamo conquistatori di niente noi. Noi saliamo e scendiamo da queste montagne e sono loro che ci permettono di salire. E neanche tanto meno un incubo, perché all'inizio del 2004 è stato una sconfitta tra virgolette, perché ho pianto tantissimo, però adesso io mi ritengo che comunque il K2 per lui non provo assolutamente odio, anzi lui è stato un signore con me, mi ha lasciato veramente la vita, mi dispiace solo che comunque con gli altri è stato veramente spietato, ma con me è stato un signore, perché se calcoliamo bene cosa è successo, io sono tornato a casa. È anche vero che ho lottato veramente come un leone a portare a casa la vita, però non c'è rammarico. Di sicuro al K2 non torno più. Non tenterò più la salita del K2 alla vetta, perché comunque io, per me è vetta, perché l'ho salita senza ossigeno, per cui il 1° di agosto ero in cima al K2, per me è vetta. Forse un domani tornerò male con i miei bambini, se mai un giorno avrò una famiglia, a fargli vedere il K2, al campo base a fare un trek e fargli vedere il K2, quello è la montagna del papà. Magari, però sul K2 non torno più e non provo nessun odio per la montagna. La montagna Rauwe si sente cantare. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Un grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito internet www.radio24.it e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.